modernità, eccetera. Se ce l'hai la coltivi, se no finché non c'è nessuno, allora uno molla tutto. E anche io lo telefono non l'aggio, ma io non lo tratto né per giocare né chi se né chi, solo per telefonare quando mi servi. Figurate un po' quanto lo tratto io lo telefono. Ma già nel batteria sul microfono, vabbè, ecco già qui va. Infatti non si può fare nulla. No, entra, manco Edu entra, non accetta provocazioni di nessun microfono. Ah va Giulio da Candea, te diventato amico di signorini e di cose di Cecchi Paone e tu pure per prendere assenteista. E allora, a te immaginaci, ha votato a favore dei matrimoni. Sì, si intendi Edu. Sì, se è giusto, non si intende, se no è entrato a fare la battuta. E delle adozioni, Edu buono. In che mondo stiamo andando? Oh, io via! Ho dato questo video sui social. Cosa, un bombolino è travagliente e quindi non vi vuoi entrare. In buon'orva, Zè, in buon'orva. Chi ha bombolino? Sì, mi ha mandato la foto di un amante qua turbo. Ha detto, se no, non credo sia di Carlo, non lo so. E non mi fate a buon'orva? Non lo so, mi ha mandato un video della festa che c'è, dei carri Sarabossi. Sta facendo audio, non lo so. Evidentemente sì. A chi andrà a fare questi cosi? Antonio Cantioni! Sì, se a Bonorva non ti intendi da così lontano. Che sa di fare Sant'Enna? Ma chiederglielo a Carlo, perché dice che lui la stazione ce l'aveva a Bonorva. E boh, si vede un'antenna. Una casa a due piani, boh, con l'antenna. Quello è parente mio. Carlo, e allora? Sì, non so come funente, da parte di Babbo. No, non sapevo. Non lo so, si vede un cavo grosso, tipo Reggiotto addirittura. Ed entra nella finestra lì, sembra che entri in una finestra lì del secondo piano, ma è tutto chiuso, queste tapparelle chiuse da tanto, si vede, boh. Allora deve essere a casa della mamma di Carlo sicuramente. Magari l'ha abbandonata come ho abbandonato io la Mantova 5. Cazzo di Mantova Turbo non ne potevo fare. Né casa né lama, tre voci mi ha dovuto rimontare. So che hanno difetti. Molte hanno difetti. Sì, lucida, durubiastello, nuda, sicura di cava. Cazzo, addirittura, si ossidava, no? Ehi, addirittura la via 25 27L. Te la ricordi? Chi sa mi si è ossidato lo bocchettone di l'antenna, lo BL femmina, cazzo, me ne farà drugare in terra la giura, per mettere la salsina e mi facendo marcire le antenne lì, dove abitavo io, devo seguire aria che nazzava da mari, sicuramente. A me mi aveva fatto il difetto la Mantova 1 che avevo, si era sganciato il filo proprio dal, poi era tutto ossidato dal connettore. A me proprio mi sei ossidato, si è staccato il PL e me ne sei sul cavo in terra. Ma tu ne hai visto quanto ha fatto il connettore della Grazia? Non affilano. La barra di Liliana a Milano sarà fatto bene. In medicina legale sarà direttamente alla carica, così. E allora, la baita. Se con Adriano l'abbiamo modificata una Mantova, l'abbiamo fatto la carica con quei tubi di rame, la bocca. Piele non veniva, mi pareva. Spero, cioè, dopo di ciò, Liliana. E forse trattava due lineari. Sentiamo anche cosa dice Claudio. Trattava. Disastro. Mettiamo un video, guarda com'è fatto. Aveva maturato un carico fittizio che era mio, mi chiede da un chilo va. E me l'ha tornato, dice non se ne fa più nulla. E va giù. Lo frequenzimetro. Lo carico fittizio da via Edu, chi sei la mio, ma sei. caso c'ha anche il coso, vedrai che quello me ne porta l'oscilloscopio pure. E di tasi buone questo carro qua. E no, che lo frequenti metto io, che cazzo lo uso a fare? Ma il carico fittizio me ne l'ha portato, che ha detto che non se ne fa, non ne può più fare di nulla. Ma cosa ne fai tu? Oh, ti rinvento, se tu. Grazie, di frequenzimenti professionali, mi sembra che avevo mandato la fotografia. Ah, sì, sì, sì. Già me l'avevi mandata. Mi che cosa si intende male, mi. L'hai visto il video? Lo sto guardando, cazzo bella fatta così, eh. Ben costruita, Di nuovo silenzio, di nuovo domande di. No, è fatta veramente, veramente bene. No, come l'ho vista in vendita, vabbè, speravo di venderla subito. E a quel prezzo ci piglia da subito. E al volo. Ma io me la riudente, è ben fatta come antenna. Poi ce l'aveva a 6 mesi, ma di tu, sul tetto. Solo doveva trasloccare e ne ha smontata. La poi c'è in vendita a 100 euro. Quando la poi c'è in vendita, ci deve fare due subito. Ha detto no, che mi adora vendì. E fa. La prima versione di te, Liliana, che ma io me la vedo dentro. Chissà si tieni e non sa vero antenna dove sei tu. Sì, sono robuste come costruzione. Sono più robuste come spessore, anche molto più della mantova, anche, capito? Perché non fa già nulla la mantova, figura della ghicca. Lui ha chiesto. Cazzo, da me vi vorrei un'antenna così come te minimo in campagna. Perché a me me lei ossidava brutti. Ecco, noi. Se tu vedi il piattello dove andavano i radiali, della mantova tubo. Marcio! Ma tu avevi anche la mantova però, la 1, la 5. Ehi, ma me ne marciva. L'aria era dopo un po' con cazzo. Infatti c'era pratica, chissami. Chissà che vado in campagna, deve essere pratica. Poi è più alta di quando ce l'avevo le altre mantove e altre varie antenne. Lei è seppellita vicino alla madre, infatti. Te le marciva perché ha un acciaio inossidabile in chivi. Certo. In realtà la dice due giorni dopo la cena. E io dico usa la marcia che sta mandando a ma scusa, tuo nipote non ti ha mai mandato una foto dei tiranti, si bisogna ancora, cioè, perché con 6 metri di palo credo che avevi i tiranti anche. 12 metri è sopra un palo da 12 metri, che è un palo in due sezioni, o lui, è Fulvio Acava, di come tirano i nostri antenni. Prima era sopra un palo da 6 metri, ma invece è sopra un palo da 12 metri. E che ti pare? E sicché non sai neanche se è in piedi, se il palo si è marcito, non sai nulla. Ma bisogna che mi attacco, no Luca, si vedeva dalla strada, ti sto dicendo. Ma lui Turino, tu vedi l'antenna. Ma scusa, non hai detto che ci abita tuo nipote lì, dove eri tu? Cioè, no, non siete in contatto? Sì, viene a affittarmi l'affitto. Bene. Ah, non mi sono mai interessato io, dammi una puttana. Ah, ma pensavo che ti avessi mandato delle foto per come era ridotta l'antenna. Si era ancora in trea. Ah, boh. Io il palo l'avevo cambiato perché una volta avevo messo questo palo telescopico, no? E praticamente c'era stata una tromba d'aria. Beh, tagliata a sighetto Maria. La giacciapata innanzi alla camiciulia e non si è facciata, ma cosa vedano i tiranti. Sinora aveva una ciappata alla ginara di Sant'Enna, la buccia. Vai dopo. Perché tu eri diciamo un po' in cosa, dai, in valle, diciamo così, ecco perché l'avevi tirata su così tanto, che dovevi uscire da lì. Ma sto dicendo che si vedeva tutta l'antenna dalla strada, di quanto era alta. E tu dici che era il vento di mare che te la faceva così? Cazzo, per tutta, più che sono qua sì. Cazzo, che me la marciva l'antenna. Boh, la mia 27 di canto ha marcito lo bocchettone di l'antenna. Me ne farà drugavo in terra. Piel è compreso. Ma è strano, perché comunque lì al mare è pieno di antenne di televisione. Boh, e quell'alluminio lì, cioè, non credo che lo vorrà... Tu vorrà zingheggia, non ti preoccupare. Cazzo. A chi più bell'aria che nazzava da mari non può essere. Sebastiano che assiste. Cazzo, si così da antenne. Sebastiano che rilascia. Ne ho cambiato parecchie antenne, mi. Allora, non una, no. Dicevi tu all'inizio. Allora, me ne marciva la mantova tua, addirittura me l'ho dovuta smontare 3 volte per fargli la manutenzione. Alla fine ce l'ho buttata. Beh, difettose quelle sono. Perlomeno so che a qualcuno gli ha difettato. Non hanno fatto una bella pubblicità. Tutti si marcivano, te. E tu lo dici che Giulio cazzo la gioia è Nova Nova. Cazzo, così dai, tu l'aria come ti arrivi da me non l'arrivi. Semplice. Se no sarebbe stato matto il coso, il piattello dove c'è il piede, lì. Perché a me mi si è marcito. Ma Giulio l'ha tenuta poco, quello l'ha tenuta pochissimo, non l'ha dato tempo di praticarsi, no? Io ne l'ho smontata 3 volte, ti sto dicendo, quella lì, la via 27 le tira giù dall'amparo, ma te sì, ma cosa mi sei marcito il coso di Rubiella, sì, non si fa un cazzo, ma sempre una tira giù l'ampada. Poi ha avuto la mantova 1, la mantova 5, la 5 c'aveva 2 mesi quando me ne sono andato a campagna. Però va 15 anni di Santena, io penso sia Brasica. Sa diventato un dipolo, va. A me ne dico. Io non vedo più assato per usare. Ogni volta stavo mi toccava per gli altri. L'ultima volta stavo addirittura venendo alle mani con mio fratello, c'era anche mia moglie. Se mi puniva le mani in alto la vi pure usare assato, perché torniamo su questa vicenda. Cazzo, non ti muoni, Brucchio, puoi entrare nel manco, Aspetta. No, sono io che evito. Evito mi proprio, che se no tocca briare. È paghisso. A chi come in zona e tocca, mica qua, non si disturba nessuno, a me non mi conosceva nessuno, perché non c'ero mai io. Andavo a dormire a Magnacchi, e buh. Dico, meno male che avevi questa di casa. Davvero. Mi ero messo con mia moglie, io già me ne volevo salire in campagna a abitare, no, con mia moglie. Ma cazzo, ti rendono la vita difficile, ma Bria giudici minando, poi salire da voi, posso cazzarla. Infatti da voi ho convissuto un po' con mia moglie e poi mi sono sposato. Ma che di canto per gente male, no, che sono andati a Rubredi, cazzo che io ero in casa di mia moglie, ti immagineggi? E mi hanno costretto a sposarmi, però sono gente male in chi... Beh, da questa parte non si fanno i cazzi sui la gente. Andrea, rimane quella Salvini a Sassa di Mebari, che ha fatto un giro lì al centro storico cercando di capire come risolvere la situazione dei nigeriani, chi si offende di spaccio e eccetera. E cosa cazzo fa Diego? Ma lui adesso, non so cosa possono fare loro, comunque era lì a San Donato e parlando con i cittadini e dice che cercano di risolvere questa cosa. Poi bisogna dire se è vero, se lo sono rubarauri, ma Dubacca ha già mangiato bocchita gratis. Memo. Non può dire che non siamo ospitali. Ma cosa fa lui? Dice sì, però la buona fase nuda aumenta tutti i rassi politici. Abbandona al nostro destino e continua. Ma in una città come Sassari se mai c'è niente. Oh, io dopo ti chiamo il razzista burro. Infatti. Allora, andiamo tre potenti nigeriani. Sì, hanno fatto una sparatoria ai nobili. Saranno in guerra per prendersi il mercato di droga con i sassaresi. Cazzo, io so che viene la donatoia a fianco a te, in Chivi, dici che l'hanno pure tutti, ma le incendiere in diera. Boh, io che non se ne vede, si vede qualche ragazzino, si vede qua, però forse perché non ci sono case, non lo so. Infatti quando passavo in Chivi, un di quel centro, a Risetti, dove c'era c'era la pattuglia della polizia sempre, lì va senso tutto a parlare di spacciatori, chimico, niente. E qua c'è questo ufficio di collocamento che è tutto abbandonato, tutti i ripredi e i fascendi, per carità, una struttura così grande, vera la circoscrizione, con l'accusa di Rugoffi di Aviani Sarrato non hanno più abisso. Ma è una cosa così grande è questa, abbandonata, bisogna ambulanze e un cosino di fazia di lezioni voi. Sì, nel conto delle ambulanze facevamo la lezione. Paolo non c'era più. Sì, entravate da dove hanno il cancello in ferro loro, no? Sì. Ma non c'è più niente, le lezioni non li so più fendino. No, ha bisogno di pure avviarli. Ma io avevo già sentito qualcosa del genere, ma mi sembra due o tre anni fa, che si erano avviati, non so se era per un motivo dell'affitto. Non ne so. Ci vanno quasi tutti gli abitanti di questo piccolo. Comunque sta di fatto che si sono avviati. Se c'era uno che mi ha detto cazzo, che l'hanno promosso a chi, se no? A me non mi piace studiare, mi piace andare in ammari, mi piace nei rivemini, uno di voi sudorra. Ho capito, già forse l'ho conosciuto quello che stai dicendo tu. E dice che lavorava in continente lui. Infatti pensava che ci promosso tu pure. Mi ha detto, un'altra lì non sapeva. E tu dirà di io. Avvantaggio, infatti era meravigliato la cosa, dove è andata a finire così. Ma che vuoi che te dica? Regolci ha aiutato l'esame. Una volta ha giocato pure un Franco e noi siamo tornati senza la cinghiare da Cagliari. Manco Mari noi era collegata alla pompa di leva, se non un cazzo la potremmo muovere la mano. A Cagliari non li danno più. A Cagliari li soffendi l'esame. Non ne fanno più via internet, no? Ci avevano fatto via internet la più dura da tanto non mi gustava nulla. Invece a Cagliari 50 domande, so. Devi risolvere un circuito che si dà, no? Che vuoi che ti canta lì? Ma c'è addirittura stavano solo a Roma, a chi non verrà più nessuno, no? Ah, io sono venuto da Zina Cagliari. Paolo, Antonella, cosa dice illegale dei proprietari? Devono dare lì. Che qui loro dicono... Tu non ce li avevi gli incontri, visto? Sì, io. La situazione dei vicini che hanno visto crescere questi cani fino a quando erano... Ma giubilato la patente di Evo, senza incontri, lo posso dare, ma... E chi mi rimane a studiare? Sono, come dire... Una voce ha giocato un concorso per guardia forestale, era preparato a livello universitario, ma cosa vuol dire a livello universitario? Libri così grossi, cazzo, ma vi studiato, ma vi pure un libro, ma l'articolo di verbali, sapevo pure. Vuol dire che non ti volevano, te l'ho detto Natalia, vuol dire che non ti volevano, e tu in ogni maniera vuoi passare l'esame, ti grima, e così, e no, per non dai, va, dai. Sì, un maresciallo, quando vieni a difendere un concorso, ma tu, figlio mio, tu ne sai, ma se non c'hai santi in paradiso, mi ha fatto comprendere che non mi passavo, e non mi sono passato. A chi va più, rincorso a Cagliari mio, si passava a Sassari e andavo a Cagliari a fare l'altro concorso e entrato. Questo, boh. Beh Natali, scendo un attimino il cane, dai, ci sentiamo dopo. Sì, io già sono qua, già non scappo. Occhio che si entra Giulio, se lo senti con la voce un po' così vuol dire che si abbaglia, abbia da male. Avrei sbagliato. Avanti, buonasera. Avanti. Sei poco veloce. Marcolino. Ciao Natalia. No, Gianni, mi piace che entra, chiama, aspetta un secondo, se non c'è nessuno chi spegne. C'è nessuno, no? Spento. Vero. Poco fa stavo parlando con Luca io. Cazzo, lo sai che. Giovanni fa il microfono. Mio figlio! Ah, io vabbè. Ma che bell'onore! E lui! È perché fra due anni, tra un anno diciamo. Cosa ti volevo dire Marco? Ma lo sai che mi ha tornato carico fittizio da un kilowatt che era il mio, no? Ce l'aveva lui, ce l'avevo lasciato e me l'ha tornato, cioè non ne vuoi più fare di nulla, Guido. Oltre al frequenzimetro adesso c'ho anche quello lì e io me l'ho fatto. Ehi, mi ricordo che te l'hai rifatto il carico fittizio, e vabbè adesso ne hai due, uno se vuoi te lo puoi vendere. Però a vendere tanto mi per due citti io me li terrei. E infatti questo è di quelli di lusso. Guarda, era è che il è che Rosmetro non ce la fa, se no era interessante vedere cosa copriva in trasmissione quella cosa lì col carico fittizio e il wattmetro no. Tu avevi già elaborato, sì, firmware. Ma poi col nano VNA puoi controllare tutto, lo puoi mettere in qualsiasi frequenza che vuoi tu, non c'è bisogno di antenne né di nulla. Ah, ma tu ce l'avevi il nano VNA? E allora sì, adesso non so cosa copra come frequenza, sì, è la stessa cosa, diciamo. Non ce l'ho il nano VNA. Adesso ne ho più dei radiamatori. Io, il TM1000 mi ha regalato. Dopo c'ho il Diamond. Su che andiamo, Brigida, ti ho visto su TikTok. Sì, biondo, tutto a posto, su TikTok. Tutto a posto da mettere a posto. Sì, sarà che bello che sono. Però cazzo devi mangiare qualcosa, sei dimagrito, cazzo, Manuè, non lo so io. Sì, quello è l'amore che mi state perendo. Sì, cazzo. sono proprio pensato, infatti ha giudizio, ma non sarà innamorato il cibizzino, no? No, è l'amore che mi sta consumando, tutti vivili. Non vogliamo sempre dell'aiuto. Ciao Manuel, ben sentito. Buonasera, buonasera. Ma per carità, amici, è Marco qua, Condor. Poi Marco, ma non mi ascolterà, dai, perché c'è un'antenna sotto il letto. No, no, già ti ascolto bene. Sì, sì, quando stai acciuppando, praticamente è come fare palestra, perdi un bel peso. Più acciuppi, più peso perdi, è come fare palestra. Infatti Natalino gli ha detto, se vuole stare in forma, ginnastica da letto, è fatto il gioco. E non uscire con i piumi quando esco da fuori casa, Marco, lì, perché il vento mi si porta via. Natalino già mi ha visto. Sì, l'ho visto anche su TikTok, l'ho visto. Ma è un altro tema che ti devi mettere una cintura da sub, ti devi mettere sotto la divisa, Manuel, se no il vento ti ci porta, devi affittare a posto. Ti trovi blu a risa di una cappata. Io ho acceso la da lì per controllare se c'era ancora l'antenna, ho premuto, ho visto le stazionarie che non ce n'è, 1-1 là, e l'antenna c'è ancora, tutto lì. Ho sentito Gianni chiamando, già poco veloce, c'è qualcuno su 10, no? Spento. Io l'ho risposto, come ho sentito la chiamata, Edu, devo dire, ho aggirato o ha salvato, che ne so. E chi è che ha girato? Gianni doppio Ru. Ah, ha fatto una chiamata su Rumi. E sta facendo carta tu, cazzo, è peggio di Vasco Russo adesso. Per la giudizio devo andare a cantare in questura. Cazzo, se non vuoi cantare, cazzo me ne sono le lacrime, meglio di Vasco Russo. Davvero? Eia, tu lo devo dire. Ha fatto una chiamata, ci sta avanti, chi è? E lei tu, non rispondia. E adesso la radio non le piace più, adesso se lo vedi cazzo sembra coso, quel negro con gli occhiali neri, con lo cieco. Ray Charles. Ray Charles, bravo, Ray Charles sembra, se vuoi cuffie le orecchie. E qua. Vamos. E qua ci cambiamo. E tu? A chi ora devo andare a travagliare? Domani a mangiare. Cazzo di San Vicente. Cazzo, la cammino il tempo di Puglia, ma va a travagliare. Domani a mangiare, è che mi sono d'oro. Infatti me l'ha già pensata, giusto? Entra domani a Manzano, se è entrato di sera vuol dire che scendi. Oh Natali, il maresciallo, devo chiudere, ciao. A te tipo un lavoro in corso, chissà. Cazzo maresciallo, e cazzo siamo in caserma, Zeppo? Sì, altro che caserma, è la zia di Marco che è peggio di un maresciallo. Cazzo, maresciallo Rocca. Sì, è vero. Cazzo, oggi ho fatto la visita oculistica lì a Linam. Allora sai che ho visto un'amica che conoscevo io e l'hanno presa la visita quella lì. Sì, lo so, stavo assumendo, ma devo avere il calcio in culo, no, Natali, lo sai. Se conosci gente, allora sì, se non conosci nessuno. Sì, a Rusogu e Russi in Chivi. Grito. detto Nick, fa giù tu, affetta che cosa, Manuel, fa che cosa, se no ti tocca sicura gentura da sub, se no ti si brucia la ventola giù di giù. Infatti per la Gitto, se questo vuole dire che tu vuoi o me, la Gitto, affetta, affetta, bravo che mi hai detto così, la tua a maglia affettato. Allora, è innamorato, è subissino, è dimagrito, coraredo. Ma lo so io, vero Manuel, che sei più magro. E ha dei pugliassi. È andato a spogliarsi, allora. È una fatica, è incredibile. Grazie, tu rendi da travagliare. Giocato a cazzo, adesso spogliati. Abbassa Tony cazzo però che non si capisce quello che dici. Aspetta, ci sapete, la carta è così. Così dovrebbe andare bene. Eia. Passa domani, ti compare giù una di questi cose di atta, che era macrubo nella manopola di volume. No, che da c'è tre di che si potete di attac, la capisci? Non in una goccia, in chibi, vedrai, non si muove più. No, lascia stare così, che quando chiamo qualche uno fuori a me non mi sente. E a chi se no non ti intendi così? E io non lo so come sto facendo adesso. Grazie, scendi i volti, ti tiro di qui a daga così tu. Ecco, bene, vera. Ma quando schiaccio il microfono si sente lo stacco? Sì. Ok, vabbè, comunque, oggi giornata così, per carità. Oggi ero di visita lo stesso io all'oculistica perché per la visita diabetologica mi ha mandato a fare la visita all'oculista, al cardiologo, quella l'ho già fatta, ne manca solo una DACI, però chi sai a me si fa tre mesi a chi lo non venne. Ah, mi posso tutte le analisi di Rusango, questo sono cappuccio. Ma io ce l'ho il 27 la visita, il 25-27 mi ricordo. E devo farla per forza perché dottor Fagillo è fine marzo, se ne va in pensione, ciao, chissà che mi date la... No, se ne è già andato in pensione Fagillo, maledetto. Vanno, ma ammetto che mi l'ha detto che è senza diabetologo, forse Tore, adesso non me lo ricordo la verità, dice che se ne è andato in pensione chi c'è un vancello, ha chiesto pure la via Eddu. No, nella tariga c'ero la settimana scorsa su, e di femmina mi ha detto, non manchi 25 marzo, 27, non mi ricordo, sono già in Fuglio, non manchi perché poi Fagillo se ne va in pensione a fine mese, a fine marzo, io sono visto a marzo, quindi lui è ancora in carica fino a fine marzo. Ma a chi tu l'hanno detto che è già in pensione? L'hanno detto, non so cosa dirti, io ce l'ho il 3 o il 6, adesso il 6 forse ce l'ho marzo. E va, ha già fatto chi si visiti, ma ha già fatto pure chi c'ha da rugare di mamma, devo fare l'esame di usango, ma la diabetologa è la cardiologa, chi vuol vedere un figa ad uno soco, c'è la cardiologa, boh. Ma ci ha fatto la pensione un po' cariduata, ma a 140 mi la usa a me, no, ma ci ha fatto un po' cura, 125-80, una bomba. Io sempre 120-80, a me prendo le pastiglie, due tensi, capito, quindi. Ma dimmi una cosa, se lo sai, Natalì, ma qualche diabetologo sa capirlo c'è? Mo che bella, a chi anda Luca in Chivi, mi vuoi giambà pure io, gata, a chi ne è più comodo andare a San Camillo? Anche a me, mi aggiunto i passi, a me mi conviene, a me. Ma cosa mi diceva a giambarlo? Luca mi ha detto a telefonare a Rugu e ti rudisi in Eddi, ma bisogna vedere se ne pigliano anche i pazienti miei, chi su è? A chi viene un'usura a Bisumia San Camillo? Io l'ho fatta al secondo secondo piano a San Camillo la visita cardiologica. E mi sono dimenticato di condire lo diabetologo a Favidaro, manco un gacuno a darmi informazioni. Luca mi ha detto comunque che lui va lì a San Camillo. Secondo Marmuto. E poi torno là, perché lui è in depressione, poi da pizze kiwi. D'accordo, ha detto a me poco come piace, si troppo lontano, ci fa parcheggio, piace, guarda che entro con la macchina dentro, però sono riscante, però che a Marco c'è un mio benzino, non fare vero qua. C'è a due baci tu in kiwi da... Ieri invece poi... Quando sono andato a cardiologio, ho posteggiato in kiwi, onde si ferma lo drammo. E sono entrato a ripilare, fatto. In kiwi è troppo dopo, è benzina, è ovvio. Non c'è paragone. Lo so. Gloria. Comunque, allora sai, si sono scendati da Tarino. Luni, arrivati da Luni, si usa pace. Allora mi ha telefonato e mi ha detto l'agenzia che il liquidatore ha telefonato e mi ha detto già tutto l'importo, mi riprenderà. Entro la cacchetta mi raggiungia. Meglio parte, meglio imbucciacara a due e imbucciacara a reddi, Doni. Certo che sì. Però l'importo è molto più superiore a quello che mi mettono su appunto Lima, perché sono le spese, capito? A me mi tocco tutto, tutto rese più, e ci sono biglietti 850 euro. Solo reddi. L'importo che c'è in più, io lo tocco, sono 850, adesso è tutto mio. Ho capito. Manco già affidati, ne grazie, si era tangente di dividere, no? No, ci sono 10 sedute di fisioterapia, siamo pagati pure visto. Poi ci sono 4 visite ortopediche, più c'è l'agenzia di Magna Poletti. Infatti l'agenzia, grazie, se non è fatti, no? L'agenzia devi sgombare Puruetta, è logico che ti hanno migliaia di ordini a Puruetti. E comunque non mi aspettavo così un bel po', la verità secca. Io ho detto che mi davano 1500 euro in su, mi diceva va bene, non mi voglio illudere molto per poi, se mi alzo di manco poi ci rimango male, invece mi sono tenuto con l'orco un passo, invece mi ha detto per poco. Meglio così, sono contento, ma te. Infatti, cazzo, tu sei gaggiunto, e lo è visto. Manco male che è giunto Franco Chiumanzano, quando ne sono uscito a chi mi hanno posto i cigucci, no? Non vedi un belin. Mi ha portato lui lì a fare la visita all'oculista, no? E dovevo fare due visite per conto della diabetologa. E mi hanno buttato due gocce di gocce. Doveva venire pure io a caricare il condizionatore, ma non le cariche più piace, lo fa un po' di rugasso, me lo metto, non me ne conto nulla. Tanto, è andato, non basti. Non è giunto, così non ha avuto un momento. Oggi, meno male che ci ho pensato, perché l'altra volta me ne sono venuto da solo, me ne sono venuto dal policlinico. Però vi saluto ragazzi, non ho visto che mi ha fatto la ruggi, mi ha sbagliato voi. Tracchetti e vado, sono stati a tracchetti, ma ripeto, non è che il giubbio non me l'ha sostenuta. Ormai la popoletta l'ho fatta arrivare al gas, è un R410A, al gas per il condizionatore. Nuova roba, siccità, allora me la metto e se la piglia luce. Chi sei la rugata che punivo nello frigorifero va più prima, io. 410. Era fuori Franco, non c'è venuto per quello, perché non c'era, che era fuori. È arrivato ieri sera e l'ho telefonato e a vedere se mi potevi accompagnare. La chiusa mia mi poneva nella chissà cosa, come si chiama, la troppina. No, ma quando ci siamo sentiti era casa sua, capito? E noi ci sentiamo lunedì, invece lunedì è passato. Andiamo, dai. Ma mi tutti impugnato sì, non ho ancora impugnato sì. Però sapete del piccio, mettere si ricava la maglietta, il pantalone e si dottoreggia. Che cosa ne so qui io? Ci sarà fendi peggio, ci sarà fendi. quindi. Ma c'è finito di travagliare, così è. Sì, tu ma una manzana va di andare. A Rizinku, andare. Sì, che è pizzare. Comunque, non so più di Marocceccio. Questo che da gennaio gli dice no, così non va bene, facciamo cos'è più e poi non ho saputo più niente cosa ha combinato. Perché a seguire ora è una cazzata e poi da quella macchina giù era qualche all'accia. A me mi davano 7 euro e 50 quando lavoravo al comune. Vabbè. Siamo che si dica. Per quel lavoro che fa e poi con la macchina sua non andare. Tu pensa che a me mi davano già la benzina soltanto per andare a Pratanita e prendere la macchina della provincia, fate un conto. Quindi la benzina da casa mia da chi dà a posteggiarla poi da prenderla dietro da casa mia. Più mi usavo la macchina di loro, capito? Ehi, Alusogo, ma cazzo un dietro, sono privati, sono sui fattori, a tutti sfruttano i quelli. Nella classifica di brani dove è lui. Il mondo serve all'inizio. Si va a sedere la tagliata ieri, a chi sa che va in crisi di travaglio e ne approfitta, le puzzinosi di vecchia, la mazza gli ne fa, raga. Infatti, se non acciappo a Edu, gli hanno acciappo dentro che vogliono entrare. E sfruttano tutti quelli che entrano, non sono sfruttati, tranquillo che è così. Senza un po' di dubbio. Giovane ancora Manuela che è andata in pensione, no? Infatti Manuela è giovane. Oggi conto chi ero, non mi ricordo davvero che con Giove tra parlando, metto, perché quanti anni c'è, io a settembre compio 70, non ci credo, ha avuto un documento e non le dimostri, eppure forse anche mi cu, va più ci di stare in manco. Quelle andano di natura, Tony. E a chi a mia moglie la pedigliata mi danno che va. E pure va, che se dai e non ci crede nessuno. Più di una volta se ne ha dovuto togliere i documenti. Invece quando c'è la pelle un po' grassa, non ti si forma nel lungo, non si forma niente, se rimane sempre intatto, anche la buona di mamma era così, comunque. Sarà bellissimo. E poi ho detto, io faccio una vita molto movimentata. Ma un baby, faccio come fai con la bacia all'ascia. Mi rammento quando era l'amica mia, no? E dice, è fermo, ti sei sempre in movimento, posati. Ma la bacia all'ascia, ogni agosto, tra l'altro, una mazza e tra qui scivo. Che tonio, l'importanza se sani. Ma che vabbè, io sono più giovane di te, però non esivo. Ma chi sono tutti i carrogati? Ma che ho messo cardiopatico, però adesso è andato bene il cuore perché ho fatto tutte le analisi ogni anno, ho detto che adesso è perfetto, comunque è pazzia per gli anni stesso. La diabete ce l'ho anch'io e quindi non faccio altro, tutti i due cosi. E quindi non è che gli acciacchi avremmo tutti più o meno me. Viado che non ha. Infatti, viado che non ha. E pure ha già avuto un infarto. Sai quanta cosa sto rinunciando, a me le banane mi piace, non le posso mangiare e non le mangio. La Nutella mi mangiava in piedi a me, tu pensa che ero tranquillo, ma mi rotta. Ma ho scoperto, ma la 13 cucchini di Nutella. Poi non me la giovata se mi figlio dopo di vita. Dopo me l'ha tornata che era un altro chilo e mezzo, il povero Vasile Macchete, se sono nauseati, non penso un po'. E poi le posso mangiare, la grande manuta del 2015, un cacchio di diabete, non le posso mangiare. Vabbè. E rinunci quella, rinunci quell'altro, rinunci quell'altro, a me piede della luce. Beh, Tony, io ti lascio che... Che devo cenare. Ok, dai Natale, non c'è problema. Tu ci pensa, c'è mezzo. Va bene, dai, buona cena. Se ci sentiamo dopo, è bene, se io ci sentiamo domani, non c'è cosa. Ok, salutami, la tua 50 e buona cena. Allora, senti, dice, rimango un po' in ascolto, sempre a qualche giorno, c'è la pazienza. Ciao, ciao. Sì, già sono in ascolto, dai, mangio questa roba qui e poi già entro. Ok, d'accordo.